c'è una vecchia leggenda di tanti tanti secoli fa, che il Mississippi sa dar il desiderio d'amar. Quando due bocche frementi si scambiano un sol bacio laggiù, no, non potranno mentir e non sapranno tradir mai più. Noi faremo come fanno il Mississippi, dove senti bisbigliare cipi cipi tra i cespugli sulle sponde, mentre mormoran le onde, coglieremo il primo fiore dell'amore. Noi faremo come fanno al Mississippi, dove a sera bisbigliando cipi cipi una dolce melodia canta al fiume al suo passar. Chiude gli occhi il Mississippi e lascia far. Quanti segreti d'amore svelati nella valle tra i fior, il Mississippi saprà e poi con sé porterà, mentre ti lasci baciar da me. Cipi cipi già ci aspetta il Mississippi, sussurrando il vecchio fiume, nel vederci stretti insieme, passa lento e porta il lume dell'amore.